Rieccoci. Ciao Drago. Siamo tornati su questo grande finale. Non ce ne siamo mai andati. No, esatto. Siamo sempre stati a lavorare qui per gli Wombat. Per gli Wombattini. E niente, siamo ancora su. Ho molto lavorato nella fase del Wombat. Abbiamo molto lavorato. Questa non è la porta. Non è la fase del Wombat, perché è più... Della diplomazia stile. Esatto. Un posto bellissimo, la Mondeggi, se non siamo mai stati. Veniteci a conoscere questa occasione. E siamo rimasti soli più o meno, sì, un paio di piacevoli sorprese, a fine di questi due giorni. In questo momento c'è il corteo che si sta muovendo per la strada di Firenze, faremo dei collegamenti telefonici appena ci sarà possibile. Di tutto fieramente presidiamo. Esatto, siamo lì sul pezzo sempre. E come sono andati questi due giorni? Molto bene, sono stati tavoli interessanti, persone interessanti da tutta Italia e dalla Francia. E a tematiche più varie, le abbiamo ripetute varie volte nella trasmissione durante la giornata, abbiamo letto tutte le sinossi, potete andare a ripescare tranquillamente, esaustive e lunghe. Il primo giorno, durante la prima giornata, cioè ieri, abbiamo parlato con diverse realtà che sono venute qua, tutte più o meno fra simboli e nodi, diciamo, clandestini, hanno parlato un po' di loro. Il motivo per cui sono qua, il motivo per cui sono andato a far parte di una clandestina, tutte le vertenze che vorrebbero portare avanti, i modi per riuscire a organizzarsi un po' meglio, riuscire a creare una rete. Quello che ho scelto spesso, come sempre, è il bisogno di fare un mutuo soccorso, diciamo, un mutuo aiuto. E poi, ovviamente, viene sempre fuori la questione del raccontarsi. Di raccontarsi all'esterno, di farsi percepire in un certo modo all'esterno senza lasciare che lo facciano gli altri lì per te, perché non lo sanno nel modo in cui tu potresti farlo. E Wombat vuole un po' provvedere anche a questo, in effetti, avendo appunto ascoltato le voci di ieri, ascoltando quello che sta succedendo oggi, e fra l'altro a proposito di ieri è già online, quindi sul sito. Sì, online il podcast, tutta la giornata, sono quasi tre ore di chiacchiere. Diviso in tre parti, una divisione nel mezzo non voluta dal Wombat ma da un altro animale. E niente, stavo animale era un canide che era deciso che a un certo punto il mix doveva andare giù e basta. E nonostante questo, il mix è andato giù, certo, perché il cane quando vuole una cosa, sì. Non come il gatto, dire gatti, no, scherzo, belle anche cani. E vabbè, tornando a parlare delle cose serie, in questo momento appunto c'è il corteo che si sta muovendo, penso che potremmo andare quasi anche con una canzoncina per riuscire a vedere un po' come si fa, chi è pronto e chi no. Possiamo andare, sì, intanto l'abbiamo già annunciato anche ieri il corteo, ricordiamo soltanto che è partito a Piazza San Marco, si sta avviando verso Santo Spirito e niente, diciamo soltanto che è stato chiamato per ricostruire, citiamo dalla chiamata, un futuro fertile e sostenere le resistenze, con la R fra parentesi, contadine e cittadine, difendendole dalle privatizzazioni, dall'avvelenamento e dalle devastazioni, contro la svendita dei beni comuni, per l'autodeterminazione dei territori attraverso esperienze di vita agroecologiche. Noi sosteniamo grandemente tutto questo, sappiamo che la piazza è bella piena, bella ricca. Il corteo sta andando, adesso effettivamente sì, potremmo davvero mandare una canzoncina, telefonare per organizzarci un pochino e vediamo che cosa dicono i wombati in loco. Via, canzoncina. Eccoci. Ci siamo. Sì, abbiamo deciso di tagliarlo perché siamo un po' più fremiamo, abbiamo grande smetto. Dai, allora stacca la musica. Stacchiamo il cavo, diciamo radio verità, attacchiamo il cavo, il telefono. La chiamata in diretta, che magari non ci risponde, c'è il brivido, capito, no? Sì, noi non l'abbiamo sentito un attimo fa. No. È un rischio. Non l'abbiamo fatto. Dai, che funziona. Eccolo. Ci stiamo provando di nuovo, eccoci, siamo da Wombat. Ci senti? Eccoci, finalmente ci siamo anche noi. Allora, come sta andando il corteo? Siamo qua che stiamo seguendo. Sì, sono adesso in Piazza Nuova, il corteo è partito da città, ho messo un concerto anticipatissimo. che sia partecipato. Partito da Piazza Duomo in direzione Oltre Arno. Sì, così approfittiamo per chi ci ascolta, insomma, se sta in zona a raggiungere, facciamo l'invito. Sia in senso critico sia in senso solidaristico, da Italia a Via Cassone, voglio dire, e quindi insomma delle persone in giro per Firenze, com'è? Senti, Firenze questa zona per lo meno è veramente in preda ai turisti. Ci sono tantissimi turisti, ci mancano Scendere giù e raggiungervi, e quindi semplicemente ci rivediamo fra un'oretta. Grazie Giovanni, a te. Mannaggia, mannaggia, la tecnologia. Tutti i miei tempi che piacevano i viaggiatori, quanto era tutto più facile e veloce. Certo, ma senza tutti questi problemi. No, può sbagliare. Senza sbagliare buchi. Quello forse. Via, verrà. Piuttosto mi sono uscito un po' di giorni, perché questi tre giorni di cammino clandestino in realtà ha creato un po' di scalpore, insomma, comunque è stata attenzionata da diversi in giro per l'Italia, diciamo. Cioè? Nel mondo del giornalismo e del web, sì, non è riuscito da mettere la vita. Nel mondo del giornalismo sono usciti un paio di articoli che sembrava interessante riproporre, magari anche per parlare di nuovo di cosa si sta svolgendo in questi tre giorni di mondeggio, come abbiamo sentito anche domani alle fascine. Questo articolo, scritto sul Manifesto, è stato pubblicato il 26 aprile da Serena Fampani. Lo leggiamo. C'era una volta la Terra. Intorno a essa, al suo possesso, girano da sempre le sorti del mondo. E, quando si parla di Terra, storie lontane e vicine si intrecciano. Dalle multinazionali ai piccoli contadini, dall'agrobusiness all'agricoltura di sussistenza, dall'utilizzo di sostanze chimiche all'agroecologia. Questa storia parla di una lotta per la Terra, ma al contrario di quello che si potrebbe pensare non si svolge in America Latina, ma in Toscana, vicino a Firenze, dove nel comune di Bagnarripoli si trova la tenuta di Mondeggi. La sua storia origina nel Medioevo, ma a noi interessa quello che riguarda gli ultimi 50 anni. Negli anni 60 l'antica tenuta venne acquistata dalla provincia di Firenze, che in sostanza la lasciò in condizioni di abbandono fino ad autorizzare la vendita all'asta per ripianare il debito accumulato dalla cattiva gestione. Arriviamo così al 2014, quando nasce il Comitato Mondeggi Bene Comune, per evitare l'ennesima vendita a privati e multinazionali di un bene comune prezioso come la terra, per evitare speculazioni edilizie e consumo del suolo in una delle zone più belle della Toscana. Così un gruppo di persone inizialmente esiguo, ma che è molto cresciuto, ha iniziato a prendersi cura di quei terreni abbandonati, di alcuni annessi agricoli e delle strade, riportandoli a nuova vita. Oggi infatti ci sono 300 persone che aderiscono al progetto, occupandosi della terra, degli olivi e delle attività agricole che si svolgono in fattoria. Ma c'è dell'altro, un aspetto che potrà sembrare marginale, ma che invece è centrale per la filosofia del luogo, la socialità, la condivisione, la comunità. Riguarda la gioia di stare assieme, di trascorrere del tempo seguendo il ritmo lento della natura. Merce rara in questo tempo di velocità e di rapporti umani surrogati mediante i social. E la riscoperta della terra come un luogo di aggregazione, che mette in contatto le persone per davvero. Per questo la scuola contadina di Mondeggi si apre al territorio, offrendo servizio alla comunità locale. Chiunque voglia per prendere parte al progetto, senza discriminazione alcuna. Questa esperienza si inserisce nella rete nazionale Genuino Clandestino, campagna nata nel 2010 per denunciare norme ingiuste che equiparano i cibi contadini trasformati, come le marmellate, a quelli dell'industria alimentare. Genuino clandestino riunisce comunità e lotta per l'autodeterminazione e la sovranità alimentare e rivendica la libera trasformazione dei cibi contadini, restituendo un diritto espropriato dal sistema neoliberista. Continui sono stati i tentativi di dialogo da parte dei portavoce di Mondeggi con le autorità locali, ma non sono stati risultati fruttuosi. Nel frattempo, buona parte della comunità locale ha appoggiato la lotta dei contadini e la sua proposta di un uso civico della terra. Sabato 28 aprile, cioè oggi, ci sarà una manifestazione nazionale con ritrovo alle ore 17.30 in piazza San Marco. Contadini e cittadini scenderanno in piazza contro la svendita dei beni comuni e per l'autodeterminazione dei territori attraverso esperienze di vita agroecologiche. E così il corteo si sta svolgendo, lo stiamo sentendo adesso, infatti in diretta, lo abbiamo sentito poco fa in diretta. Ricordiamo il sito magari www.genuinoclandestino.it per seguire e approfondire. E vabbè, mondeggibenecomune.noblogs.org, ci finiamo a forza di ricordarlo e lo facciamo comunque volentieri. Bello. Alle 10 il mercato contadino alle cascine. Questa rete che non c'è apposta infatti per mettere in contatto produttori e trasformatori, insomma, che non so. A fare una canzone e un'ultima telefonata dal corteo per sentire che cosa ci dicono. Volevo dire invece che nel frattempo sta succedendo che al centro sociale Next Emerson di Firenze questa sera, anzi da oggi pomeriggio, c'è una giornatona e seratona per la palestra popolare San Pietrino. C'è stato un allenamento di pugilato condiviso, poi dimostrazioni di combattimento, black dance, performance di tessuto aereo, adesso 11:07 in attesa della cena e più tardi ci sarà un documentario, Boxing for Freedom, e finirà la giornata con una grande session di vinili e 17 powered by Malakut, quindi nottata anche interessante all'Emerson dopo la manifestazione che avesse voglia di dileguarsi. L'obiettivo della giornata che è organizzata grazie alla palestra, no, ma davvero? No, finito. E chiamiamo. Ci senti? Si stacca il cavo. Eccoci. Ci senti? Eccoci. Allora, a che punto è il corteo? Raccontaci un po' dove è arrivato e cosa sta succedendo. Che impressione ti ha dato la città, come è stato diciamo, ricevuto il corteo, come è stato accolto il corteo per le strade? È sempre difficile fare le manifestazioni in centro a Firenze per questo motivo qua. Ora poi, nel senso... Certo. Qui interrompevano il corteo per far passare la gente. Ma tra l'altro, come... spiegamento di forze dell'ordine com'è? C'è polizia. Funziona. E bene, adesso ritorniamo. Vuoi finire di leggere la tua cosa? Ci siamo quasi rimaste male, ma sì, nel frattempo ho acchittato una situazione molto bella. Perché chiameremo all'Emerson e sentiamo un attimo che cosa stanno combinando. Anche la diretta dell'Emerson, bello. Comunque dicevo che questa giornata era scarta. No, volevo parlare della giornata. Dunque, c'è giornata di pugilato popolare all'Emerson, Benefit, palestra popolare San Pierino, pomeriggio bello, pugilato, dimostrazioni, esibizioni, adesso una bella situazione fino a notte e l'obiettivo della giornata, c'è scritto, la giornata organizzata grazie alla forza dell'autogestione della palestra popolare San Pierino è un Benefit con l'obiettivo dell'acquisto di un ring regolamentare utilizzabile per tutti gli eventi delle palestre popolari fiorentine e per l'autofinanziamento della palestra stessa. Lo sport è una risorsa e aggregazione è punto di riferimento per le persone, deve essere accessibile a tutti. Viva lo sport popolare, viva la San Pietrino. Lo urliamo forte anche noi all'Emerson, in via di Bellagio 15, stasera, niente, da ora, anzi, da oggi pomeriggio, mentre faccio cadere tutto. E cosa volevo fare? Volevo chiamare, quindi se si può mettere un attimo sottofondo e facciamo, o anche senza sottofondo, perché abbiamo un solo cavo, quindi facciamo che acchittiamo un attimo la situazione. Ok, che strano, il silenzio in radio è strano. Ah, certo, c'è una base musicale. Il microfono non funziona. Non funziona. Quindi perché la mettiamo tu? Possiamo farla così la base musicale? Sì, ci avevo pensato, bravo, bravo. Lasciala lì, guarda. Un attimo, senti lì. È una più fresca tutto. Eccoci. Chiamiamo. Pronto? Ciao, sei in diretta su Radio Wombat. Ciao, come va? Come sta andando? Tutto bene, sono stato in San Pietrino, stiamo facendo adesso le dimostrazioni, abbiamo finito le dimostrazioni di Cusinato, abbiamo tutto del treno, anche delle palestre popolari di Venise, come ci sta, lo spazio della palestra come rilascio nello spazio di gamma. Diva. Felicissimi noi di sentirlo. E adesso cosa sta per succedere? Adesso tanto inizieranno lo spettacolo di altre discipline come la posta aerea e poi lo si sposterà perché ci sarà la televisione, la proiezione del signor Boxing Sports Stadium, in diretta sempre veramente al fucilato, sempre la proiezione, ci sarà tutto di serata. Evviva! E allora noi invitiamo insomma chi è in zona e ha piacere segue a venire insomma. Ci sarà molto da ballare, da divertirsi, penso che sempre tutti erano comunque molto sana, diciamo che non è che divertente. Ecco. E l'obiettivo di questa giornata lo vogliamo ricordare? Ecco, sì, certo, l'obiettivo della giornata di questa serata è bene città che servirà almeno diciamo in parte alla regolamentare per usato diciamo gli eventi come questo diciamo però pensate a una roba più seria un po' più regolamentata e volevamo appunto prendere le righe soprattutto diciamo per tutte le realtà almeno le palestre popolari cioè, e quindi fantastico, qualcosa di preziosissimo, noi incentiviamo e supportiamo al massimo. Perché appunto tutte le città per ormai anche hanno diciamo che si utilizza la polvere, certo, non vuole essere nemmeno bolognesi e milanesi, giusto per fatto ciò per i campanili. E quindi compagni fiorentini, rilanciamo due volte e tutti all'Emerson che ci ha serato la palestra qua. E non vi veniamo per adesso, sono dimostrazioni stasera. E allora a presto, grazie, buon proseguimento, lunga vita la San Pietrina. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. La base è subito pronta. Sì, ma funziona benissimo. No, tagliamo però. Però sì, funziona bene. Per farlo con il microfono in poi. E quindi abbiamo sentito dall'Emerson che tutto butta bene. È un pezzaccio, una base. È un pezzaccio. sì, sì. Ci stiamo per staccare e attaccare il cavo di nuovo del microfono per andare in diretta al corteo. Sentiamo come sta procedendo, sentiamo se hanno incontrato i trattori. Pronto? Ciao, siamo in diretta dal corteo allora. Sì, siamo... Sì, sì, sì. Intanto per questa cronaca precisa in questa maniera, sai che cosa c'è scritto sullo striscione o ancora non è stato calato esattamente, dico? Sì. La vicinanza a quella lotta, cioè. Misure. Che la casa di un sostanza che grazie per questo dettaglio, purtroppo in realtà. Ma tra l'altro noi in realtà smaniamo per venire anche noi, quindi direi che non ci risentiamo più tardi, ma semplicemente ci vediamo in piazza fra un po'. Perduto. Gliel'abbiamo detto col cuore, il nostro animo è riuscito a trasmettergli lo stesso. Va bene, mi sa che sento solo te. Va bene, un po' di base. Si può. Abbiamo una tecnica adesso. Comunque sta andando bene questo corteo, a quanto pare. Un corteo fra l'altro molto intelligente. Anche per quelli che sono stati questi scelti. Sono te? No, senti, come no? Allora ci sono io. Stai dicendo, scusa? No, dicevo, intanto stiamo seguendo una grana eccezionale che sta per te. Eccezionale! È lo stesso tempo, in realtà, è un progetto di gente che sceglie punti chiave, preferenze per interventi, relazioni, solidarietà, insomma, da dichiarare. E altri, nel senso, sono tutti Cina per uscire, che non c'è prossima, non la provare mentre smontiamo. Si sentono cose che aspettando, intanto insomma di nuovo stavamo seguendo il corteo di Giulio non vestito, che non è un peggio, è abbastanza morto, ma se morto stai andando numerosi felici per le diverse verso sotto spinto. Magari alla conclusione del corteo ci sarà festa, ci sarà venti, ci sarà. Saluto, facile facile, semplice semplice, con un wombat wombat. Dai, a presto, domani no, Radio Wombat probabilmente non ci sarà, però ci sarà, continuerà la 3 giorni di mondeggi di Giannino Candrestino al Parco Le Cascine davanti a Agraria, se non sbaglio, in quel pratone lì, con mercatino, gioie, chiacchiere e festa, insomma.